radioarchimede.it. Della Scuola Internazionale di Comics di Torino, la sede di Torino della Scuola Internazionale di Comics. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Come può vedere chi è in streaming su www.radioarchimede.it, vede anche la webcam, mi sono portato un portatile, quindi invece di smanettare furiosamente con una birra qualsiasi distruggerò il portatile, però questo ha un motivo, nel senso che sono improvvisamente diventato molto social, non per merito mio ma per merito del mio social network manager e di Pedro. E quindi se volete interagire con la trasmissione c'è anche su Twitter @ Fulvio De Cat, che sarei poi io, e poi c'è anche una pagina Facebook, Sono Solo Nuvolette, se volete cliccare like, oltre naturalmente alla pagina Facebook di Radio Archimede e della biblioteca civica Radio Archimede. Cominciamo parlando oggi dello studio, degli insegnanti, degli studenti, di tutto quello che gravita intorno all'insegnamento del fumetto. Mario, come è nata la sede, come e quando è nata la sede torinese della Scuola Internazionale di Comics? Allora, la sede della scuola è nata nel 2007, diciamo il motore della Scuola Internazionale di Comics da lontano 1979 è Dino Caterini, che diciamo ha aperto la prima sede nazionale a Roma e poi da lì sono nate tutte le altre. Ci siamo incontrati, diciamo lui ha proposto questa idea qui di farlo a Torino, io ero già nell'idea di una scuola e quindi ci siamo sposati tranquillamente. Societariamente parlando. Societariamente spero. Anche. C'era, evidentemente già sentivi la necessità, la domanda di un qualcosa del genere sul territorio torinese. Sì, anche perché diciamo io all'epoca facevo parte della casa editrice Pavese Edizioni, in più organizzavamo Torino Comics e quindi chiaramente tra la casa editrice e le manifestazioni sentivamo proprio la richiesta. Certo. C'era proprio l'esigenza sul territorio di una scuola. E quindi l'anno in cui è nata? 2007. Quindi comincia già a avere, tra 2 anni farà il decennale, quindi è già comincia sì, ad avere già un po' siamo, di storia. Ci siamo quasi, sì, assolutamente. Ok, ok. E, dovendo descrivere gli ambiti di competenza, perché Scuola Internazionale di Comics può voler dire molte cose, si occupa di insegnare a disegnare o si occupa di molto di più? Diciamo molto di più, nel senso che sicuramente i corsi di fumetto sono quelli principali da cui è nata la scuola, poi in realtà si è sviluppata su tutto quello che è il mondo dell'arte, quindi dall'illustrazione alla grafica, al web design, al 3D, alla sceneggiatura, scrittura e così sì, via. È un discorso analogo, nel senso, quando mi Cosimo Amendolia, che ringrazio, mi ha proposto di fare questa trasmissione, mi sono accorto che c'era un vasto ambito di competenze, di aree di interesse di cui parlare, che fanno capo al fumetto nella percezione comune, ma in realtà sono molto vaste. C'è l'illustrazione, c'è adesso poi ci sono gli ambiti tecnologici, il 3D, l'animazione, sì, sì, 3D. Sì, assolutamente, infatti da quest'anno abbiamo fatto abbiamo introdotto e fatto una specie di joint venture con un'altra scuola che si chiama Event Horizon e che si occupa proprio del digitale avanzato, del 3D, del game design, technical concept art, quindi ci stiamo pian piano diciamo allargando anche a quello che chiede il mercato, a quello che è. Perché l'idea di base penso che sia di una scuola professionalizzante, poi non tutti andranno effettivamente a fare quel mestiere, immagino anche per ragioni di mercato, di possibilità di domanda, però l'idea è di avere dei docenti che sono dei professionisti. Sì, sì, assolutamente, questo diciamo è proprio, sta alla base della scuola di comics, cioè quindi tutti i nostri docenti, cioè per insegnare a scuola comics bisogna essere dei professionisti, quindi lavorare e insegnare, quindi mantenere un collegamento diretto col mondo del lavoro proprio per poter trasmettere questa professionalità. Esatto, perché ci sono tanti aspetti della professionalità che non sono esclusivamente tecnici ma anche come proporsi sul mercato per un aspirante autore, per un giovane autore. Sì, sì, questo è fondamentale, infatti noi cerchiamo per quanto possibile di far passare anche la mentalità della professione, cioè non solo la tecnica ma capire che un professionista deve stare sul pezzo, deve rispettare le consegne, e su questo si fa un po' più fatica, devo dire. Ah, ok, ma perché i ragazzi sono più spinti sul lato artistico e meno su quello prettamente concreto di mercato, perché sono sognatori o sono solo poco diligenti e, come dico sempre io agli insegnanti, dovete bocciarli tutti subito? No, assolutamente, cioè sicuramente l'aspetto, appunto, uno che dice vado a fare una scuola di comics perché mi piace disegnare, principalmente questo, è questa la molla. Però poi devono capire che se vogliono viverci di questo devono fare un piccolo salto mentale proprio. Sì, se dovessi schematizzare, abbiamo parlato molto di estero con Maurizio Manzieri nella prima puntata, ormai ben 3 settimane fa. Per quanto riguarda l'Italia, quali sono i principali sbocchi professionali? E poi so già la risposta, ma devi dirmelo tu, se ci sono stati già degli studenti che hanno trovato una loro collocazione in qualche ambito professionale di questi. Sì. Allora, diciamo, partiamo sempre dal fumetto, poi chiaramente il discorso è allargato anche ad altro. Comunque nel fumetto in Italia ci sono varie strade. Una è quella delle piccole case editrici, che sicuramente danno più spazio a nuovi autori e anche soprattutto ad autori completi. Sì. Mentre l'altro percorso parallelo è quello di andare da case editrici tipo Bonelli, Disney o Marvel, siamo già fuori, però sì, diciamo in Italia principalmente Bonelli e Disney, e in questo caso chiaramente si va a lavorare su uno stile o dei personaggi già esistenti, quindi è un percorso leggermente diverso. Dalle nostre scuole nazionali, ma anche dalla nostra particolare di Torino, sono usciti effettivamente diversi ragazzi che sono diventati professionisti nonostante, diciamo, la giovane età tra virgolette della scuola. E vabbè, ne posso citare alcuni. Stefano Zanchi, che lavora per la Disney, già ormai in organico a pieno, ed è giovanissimo, avrà 25 anni Stefano, sì, mi pare, nel sì, senso. Sì, lui è stato, diciamo, tra i disegnatori più giovani d'Italia a iniziare a lavorare per Topolino. Abbiamo un Simone Di Meo, che anche lui ha iniziato con Disney, però sta lavorando anche con diverse case editrici americane, soprattutto sull'incostrazione. Uh-huh. E questo è un aspetto che volevo sottolineare, il fatto di avere la possibilità anche di dividere, diciamo, prendere solo una sezione del mestiere del fumettista. Quindi ok, l'autore completa, ma ci può essere chi fa il disegnatore, chi fa l'inchiostratore, chi fa il colorista. Come ogni industria culturale si dividono i compiti. Esattamente. Poi vabbè, ne cito anche qualcun altro, perché abbiamo un Jacopo Tagliasacchi, Virginia Chiabotti, Giorgia Lanza. Loro ad esempio hanno iniziato a lavorare per la Manfont, che è una piccola casa editrice torinese che però si sta dando molto da fare. Stai citando tutti i nomi che pian piano mi piacerebbe invitare, poi abbiamo tante settimane davanti, quindi pian piano. Okay. A Simone ho già accennato che mi piacerebbe averlo qui, poi parlerò anche con Manf. Ecco, loro fra l'altro, diciamo, soprattutto all'inizio è interessante mettersi in gioco su più campi, quindi ok, lavorare per un editore, ma magari lavorare per la Ferrero piuttosto che, quindi sì, anche nel campo della pubblicità e così. Esatto, via. Perché i mercati possibili non sono solo il fumetto, i mercati sbocco possibili. Assolutamente, assolutamente. Voglio citare anche Luca Baino, che è uno sceneggiatore e sta lavorando per Bonelli, quindi anche non solo disegnatori, ma anche insomma in altri settori. Alcuni stanno lavorando ad esempio per Becco Giallo e Nicola Pesce, tipo Veronica Cannatello, e Nicolo Fila, quindi insomma, sì, ce ne sono poi tanti altri, adesso qui ne ho preso solo qualcuno ad esempio. Certo, poteva essere un modo per partire, citare i primi talenti emersi anche grazie alla guida della scuola e dei singoli insegnanti che poi citeremo. Ci facciamo la prima pausa, il primo break con la prima canzone. E ho fatto una playlist funky soul questa settimana, solo perché così Cosimo la smette di darmi del metallaro. Cosimo, mi ascolti, vero? E partiamo con una delle più grandi voci del rock, un po' poco della musica, che è stato il cantante di una band importante, Peter Gabriel, Sledgehammer. E torniamo in onda con Sono solo nuvolette. Questo era Peter Gabriel, Sledgehammer. Oggi saremo dalle parti dei ritmi funky e soul, pescheremo qualche rarità e vediamo se riesco a variare un po' i toni anche musicali della trasmissione. Poi la settimana prossima Pantera tutto spiano, perché sennò poi non mi riprendo più. Ho qui con me, è un piacere avere qui con me Mario Checchia, che è il direttore preside in un certo senso della Scuola Internazionale di Comics di Torino. Preside, perché non preside? Boh, non... Ah, vabbè. No, forse in una scuola, diciamo, privata, così magari non, okay, non si usa tanto la terminologia. Però. Ok, ma non ti chiamano mai preside, signor preside? No, no, assolutamente no. Ah, ok, io pensavo che... No, diciamo, diciamo l'ambiente, il nostro ambiente è comunque molto informale rispetto alla, diciamo, alla scuola tradizionale, sia per gli argomenti trattati e sia proprio come forma mentis, no? Quindi anche il rapporto tra insegnanti e allievi. Sì, tendono a darsi subito del tu, mi sì, pare. Sì, sì, assolutamente, diciamo, anche perché comunque, come dicevamo prima, noi cerchiamo di dare una preparazione professionale, quindi è importante imparare il mestiere, non tanto dire, certo, boh, il preside, il docente. O sì, sì, sì, infatti, non è importante, anzi, al limite, se c'è una forma di comunicazione e di rapporto con gli altri che dovete insegnargli, è come presentarsi magari all'editore, al datore di lavoro. Sì, sì, sì, il resto, diciamo, è più come andare a bottega, un po'. Certo, c'è un discorso più analogo all'apprendistato. Esattamente. Esatto. E ne approfittiamo, visto che abbiamo questi nuovi e scintillanti canali social, se qualcuno volesse fare una domanda a Mario, oltre a quelle che gli farò io, c'è su Facebook, che ho cancelletto Sono Solo Nuvolette, mettendo come hashtag, oppure cercando chiocciolina Fulvio De Cat, potete anche farci una domanda. E in alternativa potete anche mandare un SMS al 345 84 30 228. E Mario, parlavamo degli insegnanti della scuola, che sono tutti professionisti, e parlavamo anche di alcune novità di quest'anno. È appena... no, si volge quasi alla conclusione, siete a metà dell'anno scolastico. Sì, sì, a metà, perché diciamo i nostri corsi partono a ottobre e finiscono a giugno, quindi classico anno accademico. Quest'anno siamo partiti con un ritardo di circa un mese, quindi a novembre, perché abbiamo cambiato sede. Quindi prima eravamo in Corso Peschiera vicino al Politecnico, adesso ci siamo spostati in via Borgone, che è sempre una traversa di Corso Peschiera, però un po' più verso Corso Montecucco. Non molto lontani, ma forse più vicini alle metro, mi pare. Vicini alla metro, 500 metri dal Corso Francia, credo che la fermata sia Montecucco comunque. Com'è. E sicuramente questo è un grosso vantaggio per chi viene da fuori, perché noi abbiamo allievi che vengono anche tanti da fuori, quindi arrivare in stazione, prendere la metro e... Ma dal Piemonte in genere o anche da fuori Piemonte? Anche da fuori Piemonte, tanti dalla Liguria. Quindi il bacino è sovraregionale. Sì, sì, assolutamente. Anche perché, diciamo, noi abbiamo sedi in tutta Italia, però chiaramente alcune zone sono coperte, tipo appunto la nostra, Piemonte, Val d'Aosta e Liguria sicuramente. Sì, fate un po' da riferimento. Quali altre sedi ci sono della Scuola Internazionale di Comics? Allora, abbiamo sedi a Roma, cioè Roma era quella storica, poi sì. Pescara, Iesi, Padova, Reggio Emilia, Firenze, adesso da un paio d'anni quasi è stata aperta anche una sede a Chicago, quindi ci stiamo internazionalizzando sul serio. Ma anche perché molti degli insegnanti, per esempio mi viene in mente Lucio Parrillo, che insegna alla scuola di comics di Firenze, ma ha anche fatto dei workshop. Sì, sì, a ha fatto di Torino, dei workshop da noi. Lavora per gli Stati Uniti, Lucio. Assolutamente, noi tra, diciamo, i docenti proprio di Torino abbiamo Francesco Mattina, che lavora per la Marvel e per la DC. Abbiamo un Gigi Piras che lavora per la Disney, abbiamo Cristiano Spadavecchia che lavora per Bonelli, Fabio Ruotolo che è un autore, diciamo, più autore completo, quindi ha collaborato con Massimiliano Frezzato per i Maser, ha lavorato per la Francia, adesso sta pubblicando per Heavy Metal negli Stati Uniti. Diciamo che abbiamo un parco insegnanti che copre un po' tutto quello che è lo scibile del fumetto. Sì, quindi... sono un po' cadute le barriere nazionali, nel senso un giovane autore può proporsi all'estero con più facilità oggi rispetto al passato. Assolutamente sì, diciamo che internet e la banda larga da questo punto di vista qui hanno dato una grossa spinta, e l'altro aspetto è quello anche comunque di partecipare alle fiere, quindi Lucca Comics piuttosto che in Francia ad Angoulême, quindi per un giovane autore andare nelle fiere è molto importante, proprio per rendersi conto di quello che gli gira intorno, per proporsi, per insomma. essere presenti sul mercato, vedere anche la potenziale concorrenza e conoscere i potenziali interlocutori. Assolutamente. Case editrici. Poi ecco, adesso ultimamente in tante fiere vengono anche editor dall'estero, quindi anche lì portare il book sì. a un editor magari dalla Marvel piuttosto che... Esatto, un personaggio famoso, giusto per dare anche qui una pillola, una curiosità, per questo è Sibyl Sebulski, che è il talent scout della Marvel, un personaggio molto simpatico, appassionato di cucine italiane. Infatti lui ha anche un blog, oltre ad andare in giro a scoprire talenti per la Marvel, va anche in giro a fotografare, assaggiare e fotografare piatti italiani, che mette sul suo blog Itaku. Otaku è la parola giapponese per definire nerd o comunque l'appassionato monotematico. Itaku è un gioco di parole molto simpatico tra mangiare e otaku. E su Internazionale di Comics poi è presente anche a molte di queste fiere. Assolutamente, quasi tutte, diciamo, le più importanti. Poi chiaramente quelle locali vengono coperte dalle sedi. Ad esempio noi di Torino chiaramente facciamo Torino Coins, facciamo Cartoomix insieme con Brescia. Lucca è quella, diciamo, nazionale, perché poi raccoglie un po' da tutte le parti e poi così via, insomma, in ogni regione c'è la sua. E in queste fiere la scuola di comics fa dimostrazioni, piccoli workshop, cosa succede? Sì, noi ad esempio a Torino, e fra l'altro, diciamo, ad aprile ci sarà di nuovo l'edizione di Torino Comics, saremo presenti con lo stand, avremo, diciamo, una sala per fare dei workshop, fra l'altro gratuiti, quindi se qualcuno è interessato a un aspetto particolare dei nostri corsi può iscriversi e partecipare a una lezione gratis per vedere anche dal vero come funziona. Esatto, può essere un modo per un piccolo assaggio e poi valutare, perché a volte è difficile anche magari decidere. Sono corsi, quello che va detto, che sono corsi di durata annuale o pluriennale, quindi non è qualcosa che uno dovrebbe prendere alla leggera, giusto? No, assolutamente. Diciamo, la maggior parte dei corsi tipo fumetto, illustrazione, animazione o grafica sono triennali, e quindi cioè, in 3 anni veramente si riesce ad avere una preparazione professionale. Chiaramente la formula dei nostri corsi è quella di una frequenza di 2 giorni a settimana, 3 ore più 3 ore, e poi tanto lavoro a casa. Okay. Questo anche per permettere a chi magari studia o piuttosto che lavora di poter frequentare lo stesso una scuola come questa. Sì, che non si pone come qualcosa da fare a tempo pieno. Se qualcuno anche studia o anche lavora. E avete anche i corsi serali per questo? Sì, abbiamo anche, lavoriamo su 3 fasce orarie, quindi mattino, pomeriggio e sera. Anche questo permette molta flessibilità a seconda delle esigenze. Ci saranno anche diverse fasce di studenti come età, immagino. Sì, diciamo che le fasce d'età variano dai... Allora, noi partiamo da un minimo di 15 anni, anche se ce ne sono chiaramente pochi di questa età, e in su. La media va dai 18 ai 25, e poi a seconda delle fasce orarie cambia, nel senso che nel serale, per dire, c'è chi lavora e quindi ha un'età sicuramente più alta. Ma ci saranno anche persone che magari lo fanno anche per passione, per... Sì. Allora, diciamo, la nostra preparazione, come dicevo, è professionale. Chiaramente c'è chi lo fa con questo scopo, quindi per imparare un mestiere, per diventare un professionista, e chi magari lo fa solo per diletto, o soprattutto, non so, magari qualcuno un po' in là con gli anni che non ha avuto modo di poterlo fare prima, però per passione. E in questi termini i compiti non sono obbligatori, però servono. Sì, diciamo obbligatori finalizzati appunto a dei risultati. Chiaramente se non si fanno i risultati, cioè è un può sembrare una cosa più facile che non fare una scuola dove studi anche geografia, storia e altre materie. In realtà è alla stregua, perché comunque per riuscire a diventare un professionista ci va veramente tanto impegno e tanto lavoro e molta dedizione. Sì. Esatto. E passiamo al secondo break e poi torniamo a parlare anche di studenti, di scuole, di corsi e di quello che si può imparare e scoprire alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. La prossima canzone è di una band poco conosciuta, ma un pezzo, forse poco conosciuto anche il pezzo, ma potrebbe piacervi. Poi l'idea mia è di far scoprire, oltre a talenti e professionisti dell'ambito del fumetto, anche pescare un po' nella mia cultura musicale, proporre qualcosa che a me piace molto e potrebbe piacere anche a qualcun altro. Il prossimo pezzo è sempre ambito funky, Average White Band, Pick Up the Pieces. E siamo tornati in onda sulle frequenze digitali di Radio Archimede. Questa è Sono Solo Nuvolette. Se siete su Twitter in questo momento potete interagire mettendo l'hashtag sono sul nuvoletto, cercando me, chiocciolina, Fulvio De Cat, io sono Fulvio Gatti, e tutti i martedì conduco questo programma, che è anche un podcast, lo trovate su SoundCloud e sulle principali piattaforme. Stavamo parlando della Scuola Internazionale di Comics di Torino, perché è venuto a trovarci Mario Checchia, che è il direttore, non preside, abbiamo detto, perché c'è tutto un rapporto un po' più informale. Granduff, Loopman, quelle cose lì fantoziane, neanche quello, giusto? No, direi proprio di no. Solo il direttore. No, perché poi Mario è una persona molto, molto disponibile, molto preparata, e quindi anche a volte mi sembra che schivi anche il titolo di direttore, invece quello è tuo di diritto, per questione... Purtroppo quello me lo devo tenere, dai. Ti spetta. Mi spetta. E parlavamo anche di novità, nel senso, è appena, siamo in corso d'opera dell'anno scolastico alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, ma l'anno scolastico appena iniziato ha portato una sostanziale novità, quantomeno logistica, giusto? Forse ne avevamo anche già parlato, sì. Prima, comunque, diciamo, è stato quello il cambio di sede. Questo dovuto a, diciamo, due fattori. Uno legato all'inserimento, che, come ho accennato prima, dei corsi dell'Event Horizon, che sono la parte, diciamo, del digitale avanzato, molto strizzando l'occhio ai videogame, e questo ha portato chiaramente una crescita degli iscritti, e quindi ci siamo dovuti spostare in uno spazio molto più grande, e molto anche, direi, più accogliente, con diciamo, l'occasione è stata quella di rinnovare un po' anche gli spazi, di introdurre un po' di più di tecnologia, quindi noi lavoriamo molto con, soprattutto con iMac, con doppio sistema operativo, quindi per poter lavorare in qualsiasi ambiente, sia per i corsi appunto di colorazione digitale, di inchiostrazione digitale, ad esempio questi sono alcuni corsi che stiamo introducendo. Si può pensare che nel fumetto, diciamo, si può fare sì tutto a mano, ma chiaramente tutta una serie di lavorazioni ormai sono state digitalizzate, quindi anche l'inchiostrazione pian piano sta passando a questo aspetto qui del lavorare con la tavoletta grafica, che dà, diciamo, dei grossi vantaggi, perché permette di essere più veloci, di tornare indietro se si sbaglia, e fra l'altro viene sempre più richiesto dalle case editrici. Certo, beh, sono strumenti, ne parlavamo con Maurizio Manzieri la prima puntata. Oramai il digitale è uno strumento come un altro, nel senso, nel fare un'illustrazione tramite tavoletta grafica o farla a mano, la differenza è solo l'utilizzo dello strumento, e voi provvedete la tecnica per entrambe le situazioni. Sì, diciamo che comunque il suggerimento è di fare un percorso graduale, quindi comunque, diciamo, noi ad esempio nel corso tradizionale di fumetto non si lavora col digitale, cioè si lavora a mano, si parte dalla matita, si lavora poi col pennello, con il pennino, pennarelli, si sperimenta col colore, cioè prima bisogna imparare a usare gli strumenti manuali, poi, diciamo, di conseguenza il passaggio a digitale è una cosa dovuta, però partire subito col digitale forse può essere a monte lo strumento più che permette migliore padronanza della tecnica in generale è l'analogico, nel senso, sono gli strumenti tradizionali, poi si passa anche per imparare, sì, poi dopo ok. E ci sono allievi che frequentano magari entrambi, oppure c'è anche un corso di partenza che fate, credo d'estate, che è quello di disegno base? Sì, in realtà non lo facciamo solo d'estate, ne facciamo tre nell'arco dell'anno, di questi, diciamo, del corso di disegno base. È un corso che dura 2 mesi ed è incentrato su anatomia e prospettiva. Chiaramente è un corso base proprio perché serve a imparare, diciamo, i fondamenti, e da lì uno poi può scegliere se, diciamo, gli piace più raccontare, quindi buttarsi sul fumetto, o sull'illustrazione, sull'animazione, se gli piace il movimento, insomma. Anche questo è un primo step, come dicevamo, come workshop gratuiti, se qualcuno volesse intercettarli per vedere un po' come funziona, anche il corso di disegno base può essere un primo passo per decidere poi se intraprendere un percorso anche più impegnativo come il corso triennale. Una cosa che volevo aggiungere è che noi per ammettere gli studenti ai nostri corsi facciamo un colloquio orientativo, quindi chiediamo di portare anche del materiale, quindi la valutazione viene fatta principalmente sulle capacità, quindi si valuta il livello, certo, del disegno e si dà anche un consiglio di orientamento, okay, proprio questo. Sì. Quanti colloqui ne fai parecchi, mi pare? Sì, direi tanti. E cosa si cerca anche di aiutare a capire quali potrebbero essere l'attitudine del potenziale allievo? Sì, esatto. Cioè, chiaramente tanti ragazzi magari hanno un'idea di un ipotetico corso da fare, poi magari sono portati più a fare altro. Quindi da questo punto di vista qui, sia il colloquio orientativo, ma i docenti stessi nel corso di studio danno anche loro dei consigli, certo, magari orientano i ragazzi a spostarsi in un senso piuttosto che in un altro. Ok, quindi è un percorso in fieri sia in partenza che nel corso degli studi. Ci sono esami a fine di ogni anno o solo alla fine del triennio? Allora, il primo anno si fa uno scrutinio, okay, invece il secondo e il terzo anno un esame. L'esame comunque è incentrato sul book dei lavori fatti durante l'anno, cioè non c'è da fare una prova il giorno dell'esame, per capirci. Ok, però è una valutazione, credo, anche tecnica dei risultati ottenuti dallo studente. Sì, le valutazioni vengono fatte in trentesimi, quindi durante l'anno i docenti danno una valutazione a chiusura di ogni argomento trattato e poi a fine anno c'è la commissione che, diciamo, dà, okay, un giudizio super partes. Ok, che dovrebbe anche aiutare lo stesso allievo, nel senso, credo che sia qualcosa per lo stesso allievo, non necessariamente per dare una votazione, ma per aiutarlo a orientarsi. Sì, assolutamente. Ad esempio, il terzo anno noi invitiamo sempre anche un ospite esterno, quindi o un professionista che non insegna nei nostri corsi, o nel caso del fumetto magari l'editor di una casa editrice, nel caso di grafica appunto magari uno studio grafico. Questo proprio per dare anche delle prospettive, ed è già successo che l'esaminatore nota magari qualcuno che gli piace come lavora e poi va direttamente a fare dei workshop in azienda. Esatto, e credo che questo sia un ottimo punto di partenza, se non di arrivo, per pensare a un percorso professionale di questo tipo, per pensarsi seriamente. Quanti sono in questo momento gli allievi iscritti? Allora, attualmente, diciamo tutto compreso, perché poi comunque sia Scuola Comics e Event Horizon ormai è una realtà, sì, unica, abbiamo superato i 400. Caspita. e quindi ci sono più aule? Mi pare che nella vecchia sede fossero 5. No, nella vecchia sede avevamo 4 aule e qui ne abbiamo 7, quindi quasi il doppio. Ok. E c'è più tecnologie, quindi parlavi degli... Sì, abbiamo ad esempio attualmente 4 aule attrezzate con, come dicevamo, con 3 con iMac e una con PC, perché purtroppo nella diciamo, sezione videogame alcuni software non girano bene su Mac, purtroppo. Okay. Mi dispiace perché io Mac ci sono nato, quindi però è così. E chiaramente attrezzate anche con, cioè ognuno ha la sua postazione, i suoi software, con proiettore in modo da poter seguire la lezione dell'insegnante tutti insieme. Certo. Beh, credo che il discorso del Mac e dell'illustrazione sia una lunga storia, nel senso, e questo adesso parlo invece che al direttore, anche al professionista dell'ambito di settore, è quasi sempre stato dato per scontato che il Macintosh rispetto al PC per gli ambiti di grafica, di video fosse più utilizzato, ma c'è un motivo tecnico o è anche un po' di moda? No, allora diciamo che all'inizio sicuramente la Apple ha puntato tutto sull'immagine, sulla grafica, quindi interfaccia molto facile e molto più avanzati, diciamo, proprio nell'uso di certi software. Quindi all'inizio se volevi fare grafica o arte, comunque dovevi usare assolutamente. Credo che tra l'altro l'interfaccia grafica punta e clicca icone sia nato prima su Macintosh. Assolutamente, poi assolutamente sì. PC era ancora il DOS, che era ancora la linea di comando. Quindi. Sì. Windows ha copiato da questo punto di vista qui. Ok, vabbè. Passa il tempo, cade in prescrizione. O quantomeno, quando qualcosa viene copiato di solito è perché funziona e quindi... Sì. Ma nella tua esperienza poi è questione anche di software a disposizione, come è stato... che ha reso il Mac superiore al PC nel corso degli anni? Ma all'inizio sì, perché alcuni software giravano solo su Mac e non su PC. oggi assolutamente, diciamo, tutti i software sono equivalenti. Chiaramente l'interfaccia continua a essere molto più friendly quella Mac, assolutamente. Certo. E parlando invece del digitale, poi magari ne parleremo con Daniele Scerra, che è la persona, è il referente, una sorta di direttore di Event Horizon. Sì, assolutamente. Okay. Lui, sì. Però dovendo anticipare qualcosa di questi tipi di corsi, si tratta di 3D, animazione, game design? Sì, diciamo allora 3D avanzato, nel senso che noi abbiamo il corso di 3D base, uh-huh, che viene fatto come Scuola Comics, e quello avanzato come Event Horizon. Ok. Quindi ci sono anche lì, cioè, diversi c'era corsi. Già un corso di 3D anche nella scuola? Sì, c'era già nella scuola e Comics. Con che software? Maya? Maya, 3D, okay. Maya, sì, sì. Okay. Noi principalmente viene utilizzato questo, perché poi è il software più diffuso nell'animazione, quindi... Ok, okay. Sui videogame ce ne sono di tre tipi, diciamo, di corsi, quindi quello proprio del classico game designer, oppure chi studia software, chi studia gli ambienti, quindi diciamo diversificato anche in questo, anche perché il mondo dei videogame è veramente enorme. Credo anche come industria oramai, nel senso stanno cominciando anche a cercare più professionisti, anche come professionalità, nel senso. Sì, assolutamente. Su Torino ad esempio esiste un gruppo di aziende che si chiama T-Union, che sono tutte aziende che lavorano nel campo dei videogame, non solo, diciamo, a livello nazionale ma anche internazionale, e l'idea, diciamo, come era nata con la scuola Comics, è quella di creare anche un collegamento diretto con le aziende, quindi tu fai la scuola ma dall'altra parte stai lavorando già, stai imparando per lavorare in azienda. Anche perché serve una formazione molto specifica e molto sofisticata, che è difficile trovare sul mercato nuda e cruda, ma probabilmente collegandosi con un istituto di formazione è più... Sì, sì, questa diciamo è una formula vincente, assolutamente. Okay. Torniamo a parlare anche del professionismo dopo il break. Ancora una canzone, e questa volta andiamo a pescare nel repertorio di Stevie Wonder. E il pezzo si intitola I Wish. Torniamo in onda per l'ultimo quarto di Sono Solo Nuvolette. Se volete seguirci su Twitter, all'hashtag Sono Solo Nuvolette, con molta fantasia, però l'importante in questi ambiti e essere coerenti con nomi, spunti e hashtag. Io sono Fulvio Gatti, alias Fulvio The Cat. Qui in studio abbiamo Mario Checchi, il direttore della Scuola Internazionale di Comics di Torino. Abbiamo parlato di studenti, di insegnanti, abbiamo parlato di attività professionalizzanti, che detto così sembra più un sermo istituzionalis un po' noioso. Invece abbiamo detto che c'è un rapporto molto anche amichevole, molto da bottega, tra insegnanti e allievi. Non abbiamo parlato però delle attività collaterali che svolge la Scuola Internazionale di Comics. Per esempio, workshop all'esterno, e questo l'abbiamo detto, ma anche partecipazione ai concorsi, se non sbaglio, giusto? Sì, diciamo allora, come scuola noi cerchiamo di incentivare molto la partecipazione dei concorsi. Chiaramente facciamo noi una selezione per segnalare quelli più interessanti. Certo, perché è una marea, anche i concorsi sono una marea, quindi a quel punto bisogna filtrare un po', sì, ciò da cui i ragazzi possono avere un feedback utile. Esattamente, visto che comunque nei concorsi ci si impegna, il più delle volte a gratis, almeno che venga fatto per uno scopo. Esatto. Noi ad esempio come sede di Torino ne organizziamo uno che ormai ha raggiunto la terza edizione, e ce ne sarà adesso a breve una quarta. Si chiama Pazzi per il fumetto. Questo concorso è nato dall'idea di Villa Iris 2, che è una struttura sanitaria di Verrua Savoia. Siccome i proprietari sono appassionati di fumetti, hanno avuto l'idea di proporre di fare delle storie su argomenti di disagio mentale e fisico, che insomma sono argomenti che normalmente non vengono trattati, e devo dire che trattati col fumetto acquistano anche sicuramente più appeal e anche più leggerezza in certi casi. È uno dei trucchi del fumetto, nel senso, riesce a rendere più accessibili molti argomenti magari difficili, molte tematiche. Diego Caielli, che è uno sceneggiatore di fumetti attualmente in forza alla Bonelli, è stato sceneggiatore capo, per, come potremmo dire se fosse una serie TV, per una serie che si chiama Long Way, che è uscita per Euro Editoriale, adesso si è conclusa, era una miniserie, e faceva un bellissimo lavoro sulla multiculturalità, visto che era ambientato a Milano, nel quartiere in cui c'è una grande presenza cinese. Il protagonista era un ragazzo cinese che arrivava in Italia e lottava per raddrizzare i torti in questa società multiculturale. Questo nella popolarità del fumetto da edicola permetteva di raccontare anche qualcosa di contemporaneo del presente, e credo che sia, con le dovute proporzioni, anche un discorso fatto con Pazzi per il fumetto, riuscire a portare un messaggio, renderlo più accessibile, un messaggio che è comunque importante come quello del disagio, del... Sì, assolutamente. Direi, diciamo, collegandomi a questo discorso del concorso, secondo me, cioè, il linguaggio del fumetto purtroppo nella scuola italiana non è ancora stato, diciamo, introdotto con la giusta... Sì, boh, c'è il discorso della cultura popolare, un po' un leggero snobismo, diresti una scarsa coscienza delle potenzialità del linguaggio? Sì, soprattutto questo. Io posso citare, vabbè, qualcuno che conosci molto bene, che è Scott McCloud, che ha dimostrato, voglio dire, come il linguaggio del fumetto può trasmettere dei concetti veramente molto complessi con una facilità incredibile. Quindi da questo punto di vista qui l'aspetto della didattica del fumetto è veramente, ha delle potenzialità incredibili, e spero che prima o poi qualcuno... Ma sta emergendo, è qualcosa che si sta diffondendo. Hai citato Pecco Giallo, scrivono e disegnano, hanno disegnato qualcosa per Pecco Giallo alcuni ex allievi della scuola, e Pecco Giallo è una casa editrice che fa graphic journalism anche su argomenti di attualità, biografie eccetera, e ha portato il fumetto al di fuori della nicchia, magari dell'appassionato che associava il fumetto a Tex o a Topolino, che sono capisaldi della nostra cultura popolare. Ma il fumetto non è solo quello, come negli Stati Uniti il fumetto non è solo Spider-Man. Scott sì. McCloud è il più grande esperto e studioso del fumetto, l'hanno definito l'Aristotele dei comics, è stato qui a Torino nel 2010, ho avuto il piacere di fargli da interprete anche al Circolo dei Lettori. Nel caso del confronto, tu come direttore della Scuola Internazionale di Comics, nel confronto con le scuole o gli ambienti al di fuori della vostra realtà, ti rendi conto che c'è più snobismo o più semplice ignoranza, distrazione nei confronti del linguaggio del fumetto? Si sottovaluta oppure semplicemente non lo si conosce? Sottovalutato sì, allora, diciamo che in passato poteva essere più snobismo, adesso forse più scarsa conoscenza, perché comunque anche con l'introduzione, diciamo, del termine graphic novel qui in Italia, sicuramente è stato un po' sdoganato il fumetto dal punto di vista culturale, quindi è servito a, diciamo, a non avere più la puzza sotto il naso rispetto a questo mezzo. Oggi va fatto un po' più conoscere, più che altro per le potenzialità didattiche nelle scuole, secondo me. Sì, perché di per sé il linguaggio del fumetto, cioè immagini in sequenza con eventualmente abbinato del testo, che non è indispensabile, però può accompagnare, può raccontare potenzialmente qualsiasi cosa. Certo, assolutamente. E l'ha dimostrato Art Spiegelman, per esempio, con Mouse. Sì, diciamo che anche lì ha trattato un argomento veramente spesso con una leggerezza. Art Spiegelman ha raccontato l'olocausto in questa storia in cui i nazisti sono dei gatti e gli ebrei sono dei topi, un segno molto, molto secco, molto essenziale. Ha raccontato qualcosa di che è stato raccontato in molte occasioni, forse in poche con la stessa efficacia. Sì. Poi ecco, un'altra cosa che volevo dire sulla sensibilità della scuola, che è molto vicino al sociale, sia alla sede di Torino ma anche a livello nazionale, tutte le altre sedi. Ad esempio, un altro lavoro che abbiamo fatto un po' di tempo fa è la creazione di un albetto che si chiama Fuga da Auschwitz. È stato fatto in collaborazione con l'associazione Terra del Fuoco, che è quella che organizza viaggi della memoria, porta appunto i ragazzi delle scuole medie a visitare Auschwitz. Non sapevo, ho citato Mouse per caso, mi sono collegato a quello. Il lavoro nostro è stato quello di mettere a fumetti il racconto di due prigionieri scappati dai campi di concentramento, ed è venuto fuori questo albetto veramente molto simpatico, cioè simpatico, diciamo, sì, per dire, però anche lì trattare un argomento di questo tipo con veramente... Ha una sua leggerezza, nel senso, di racconto. E un'altra cosa fatta in questi termini che abbiamo fatto l'anno scorso con la Cardio Team, che è un'associazione che si occupa prevenzione di malattie cardiache nelle scuole, cioè loro portano questo nelle scuole. Uno dice, boh, i ragazzi giovani che c'hanno a che fare con l'infarto. In realtà ci hanno spiegato che lo stile di vita che si tiene da giovani influenza anche poi l'età adulta, e per questo è stato creato un fumetto, una storia a fumetti fatta dai nostri ragazzi, anche qui portando un messaggio, insomma, di un certo peso, con immediatezza veramente notevole. Certo. Quindi state dimostrando nei fatti quanto può raccontare il fumetto. Assolutamente. Mi piacerebbe salutare Simona, che penso che ci stia ascoltando, che è una delle colonne portanti della Scuola Internazionale di Comics di Torino, insieme a Francesca, direi. Sì, ciao Simo. Il tempo scorre come sempre tiranno, è sempre un piacere chiacchierare con gli ospiti di volta in volta. È stato un piacere chiacchierare con Mario, perché ci hai offerto una panoramica su quello che è la Scuola Internazionale di Comics di Torino, l'insegnamento, l'apprendimento e anche le potenzialità del fumetto. Poi in questo caso oramai tutto passa attraverso i social, tramite internet, quindi vuoi indicare quali sono i canali tramite cui informarsi sulle iniziative della Scuola Internazionale di Comics? Sì, allora noi abbiamo un sito che è nazionale, all'interno di cui ci sono tutte le sedi, quindi quella, anche quella di Torino, che è www.scuolacomics.com, scusate, e poi diciamo la pagina Facebook, che però ci si può accedere direttamente dal sito, che è un po' più facile, perché sennò è un po' complicato com'è. Ok, ma poi magari credo che anche dalla pagina Facebook ti sono solo nuvolette si può accedere, perché ho cliccato like in questi giorni, quindi sono già gemelle, sono già sorelle le due pagine, quindi se volete fate un giro, vi siete collegati a internet, cliccate mi piace sia sulla pagina Facebook della Scuola Internazionale del Comics di Torino, sia su solo non volete, e già che ci siete anche a Radio Archimede, Biblioteca Civica Multimediale Settimo Torinese. Sono quattro clic in un colpo solo, fate contente quattro persone diverse, anzi di più, perché c'è tutto un mondo che gira intorno, quindi meglio di così, basta un clic. Abbiamo un minuto, il tempo scorre tiranno, quindi farei che o concedere a Mario la classica ultima domanda, fatti una domanda, dati una risposta, che è inutile però, quindi oppure andare verso la conclusione. Questa è stata Sono Solo Nuvolette, i canali anche digitali sono l'hashtag Sono Solo Nuvolette, l'email sono solo nuvolette@gmail.com se voleste chiederci qualcosa, se vi foste sintonizzati tramite podcast, quindi non in diretta, e voleste informazioni scrivete pure. Io sono Fulvio Gatti, mi trovate come chiocciolina Fulvio The Cat, e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre alle 15, sempre su Radio Archimede. Chiudiamo con ancora una canzone che si chiama, non diciamo come si chiama, diciamo che la band sono i Ladri di Bicicletta, di Biciclette, e il pezzo si intitola, vabbè lo dico, Dr. Jones e Mr. Funk. Alla prossima settimana, ciao a tutti!